errante corteo, vien di barbaro furor, vien di barbaro furor, spirito errante corteo, via d'Alneo, vien di barbaro furor. La pace di Medea, spirito errante corteo, vien di barbaro furor, vien di barbaro furor. Spirito errante, spirito errante, tornerò. Pien di barbaro furor. Della strada inica, della vendetta far saprò. Contro Olimpia, entra di cor, contro Olimpia, entra di cor, Olimpia, Olimpia, entra di cor. Con la face di Megera, spirito errante corteo, vien di barbaro furor, spirito errante tornerai a Tarneo, vien di barbaro furor. La voce di Megera, spirito errante tornerò, vien di barbaro furor, vien di barbaro furor, tornerò, tornerò, tornerò. Spirito errante, spirito errante, io torno.